Nella mia vita continue distrazioni e distrattoni, ne prendo tutti i giorni di sti suoni. Non posso farne a meno di sto, da certi vuoti e certi volti ho visto indecisioni, indiscrezioni per certa gente, indipendenti nelle scelte. Le nostre azioni portano conseguenze, certe discussioni deviano coscienze. E se mi parli alterando i toni, alternando cattivi e buoni, ora punto alto, oltre al fango ed altro canto. Non ho bisogno di carezze, in questa vita mi servono certezze. Sono distratto più da Eva che dalla mela, il diavolo e la serpe che si cela nella mia testa. Non sono quel ragazzo che piangeva, tuo padre te l'aveva detto. A volte sentimento una perdita di tempo in questa nebbia. Torino odia, ti smoca, uccide la noia. La vita è troia, ma si sapeva. Distratto a me, te penso che ci sia risposta ai miei perché. Non so se sia la verità, distoglimi dalla realtà. Per isolarmi, cerco un modo per staccarmi e capacitarmi di non essere una copia ed omologarmi. Chiudo gli occhi per far finta di addormentarmi, poi riaprire e ritrovare un modo per distrarmi. Avere un passatempo è una cosa scontata, come stuprare un figlio è una cosa scontata. Uscire per l'indulto la pena è scontata, poi ti uccidono a 20 anni, te l'hanno scontata. La vita pur in percentuale elevata, peccato solamente se è finita. Nessuno che vede, che parla o che sente, ma ci confessiamo in chiesa, la grazia è l'importante. Ero distratto, risposta più frequente ad uno sbaglio, nasconde verità dividendola come un taglio. Racchiude frasi, tralasciando nel dettaglio, rinnega la realtà per cancellare un brutto sogno. Voglio cosa? Una distrazione che mi aiuti, niente voci, tutti muti. Ora, pupille dilatate pronte all'uso, spegnete tutte le luci. Rosse come il sangue, come l'hard, un velo copre il volto, non è fard. Qui non è die hard, è live, lo compri un sorriso, la Mastercard. Distratto a me, te penso che ci sia risposta ai miei perché. Non so se sia la verità, distoglimi dalla realtà. Voglio più perdere tempo dietro a false promesse, promesse mantenute ma senza interesse. Interesse era concentrarsi per volere essere, tessere lettere per essere perse. La voglia di non crescere, distratti da quegli occhi, scrivere nel buio delle notti. Quando non dormi, dal finestrino ai tramonti, da me cosa ti aspetti, i nostri difetti non tornano i conti. Smetto di fumare, poi riprendo il giorno dopo, cerco il beat perfetto, lo trovo sempre il giorno dopo. In magazzino un casino di questi tempi scandalosi, raddoppio le dosi, vogliosi, nervosi. Tu cazzo racconti, voi siete pronti per la guerra dei mondi. Gli orizzonti sono vasti, ma alla fine su chi conti? Gli errori che commetto, aggiungi un nuovo commento. Raggiungimi, ti aspetto. Aspettative, musica, ambizioni, innovazioni su ste cazzo di canzoni. Torino 011, distrazioni. Nel male, nel bene, spezza le catene. Prendere la vita come viene, oppure prendere la vita con più fede. Distratto a me, e penso che